Una buona reputazione vale più dell'olio profumato. Ecclesiaste 7:1. Capita spesso di fare dei paragoni. Ci sono tante cose buone, altre però sono migliori. L'Ecclesiaste è un uomo che definiremmo terra terra. Nel suo libro giudica alcune cose migliori di altre. La tristezza migliore del riso, la fine di una cosa migliore dell'inizio, ascoltare la riprensione del saggio migliore che l'ascoltare il canto degli stolti. Nel versetto citato, l'Ecclesiaste asserisce che la reputazione, il buon nome o la stima sono migliori dell'olio profumato. Ora, se consideriamo che l'olio profumato è gradevole, piacevole, è ricercato da tutti, che attira la gente ed è prezioso, la stima, cioè la buona opinione che la gente può avere di noi, lo è molto di più. E, quindi, più che mai importante fare delle valutazioni sulla stima. Spesso si afferma che l'importante sia diventare dei cristiani, come se tutto il resto della nostra esistenza fosse relativo. Ma, come considereremo, la parola di Dio dà valore a tutti gli aspetti della vita terrena, e che lo vogliamo o no, essere stimati è una cosa che fa piacere a tutti. A dimostrazione di ciò, a volte lasciamo correre certe convinzioni personali per comportarci in modo che la gente ci stimi, ci accetti. E ciò è comprensibile perché è più difficile acquistare una buona reputazione che perderne una cattiva. Riguardo al tema della stima, la parola di Dio ha molto da insegnarci. Una buona reputazione è preferibile a grandi ricchezze. Proverbi 22:1. La scrittura si riferisce spesso alle ricchezze e all'oro perché questi per l'uomo sono i simboli di quanto ci sia di meglio in questa vita. Ebbene, la stima, la reputazione e l'apprezzamento valgono molto di più di quello che noi uomini generalmente riteniamo essere il superlativo della nostra esistenza terrena. Se ci riflettiamo un attimo, ciò è vero. Perché la maggior parte delle persone vive in un continuo e insoddisfatto bisogno di stima. Persino il ladro o l'assassino, che apparentemente sembrano liberi da questa catena, cercano di piacere a coloro che fanno parte della loro cerchia. Come disse Pascal, siamo così vanitosi che la stima di 5 o 6 persone che ci stanno d'intorno ci rende lieti e ci appaga. Proprio perché la stima è così importante, la parola di Dio ingiunge ai credenti di avere stima, onore, apprezzamento, considerazione gli uni per gli altri. Nell'amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri, nell'onore usate riguardo, prevenitevi gli uni verso. Accoglietelo dunque nel Signore con grande gioia e abbiate stima di persone come Lui. Filippesi 2:29. Ora, fratelli, vi preghiamo di aver rispetto per quelli che si affaticano fra di voi, che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono, e di averli insomma stima nell'amore per la loro opera. Vivete in pace fra voi. 1 Tessalonicesi 5, 12-13. Gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore. Principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. 1 Timoteo 5, 17. Preso atto di queste verità, potremmo già concludere le nostre riflessioni perché è evidente che i credenti devono avere stima gli uni per gli altri, soprattutto per coloro che lavorano nel campo di Dio. Non stimare un fratello significa derubarlo di un bene che Dio gli ha dato, significa venire meno ad uno dei fondamentali doveri del credente. È triste che i credenti si disonorino gli uni gli altri. Però, a mio avviso, per completare le riflessioni sulla stima, occorre che noi rispondiamo almeno a 3 domande che mi sembrano doverose. 1. È giusto che il credente ricerchi sempre la stima poiché essa è di tale importanza? 2. È giusto che il cristiano pretenda la stima? 3. Come si deve comportare un figlio di Dio quando non è stimato? Rispondiamo a queste domande. 1. È giusto che il credente ricerchi sempre la stima? La risposta a questa domanda è: dipende dalla stima che ricerca. In linea generale non è male ricercare la stima. Essa è necessaria per vivere, per convivere, per comunicare. Se poi si cerca di essere stimati da Dio, alleluia! Camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa. Colossesi 1 e 10. Se si cerca la stima degli uomini, le cose cambiano. Gesù Cristo, il nostro Maestro, non fu stimato. quando era sulla terra, e se il cristiano afferma di essere un suo discepolo, non può pretendere di essere apprezzato come tale da coloro che rifiutano Cristo. La stima da parte di queste persone non deve essere ricercata. Gesù disse: «Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché allo stesso modo facevano i padri verso i falsi profeti». Luca 6:26. In questa affermazione Gesù vede un grosso pericolo in coloro che desiderano essere stimati da tutti. E questo vale anche all'interno della famiglia di Dio. Chi non ha nemici di nessun genere è dunque collocato nella cerchia dei falsi profeti, di coloro che cercano l'approvazione generale. L'apostolo Paolo scrisse ai Galati che cercavano di piacere agli uomini: «Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo». Galati 1:10. Paolo aveva vissuto nel passato con l'obiettivo di essere gradito ai suoi connazionali farisei e non, ma si rese conto che dopo la sua conversione, a causa del suo messaggio, non poteva essere apprezzato da tutti. In passato aveva cercato l'approvazione umana, come del resto fa la maggioranza delle persone, ma ora se avesse cercato di piacere agli uomini non avrebbe potuto essere servitore di Dio. Nel considerare la sua vita e quella degli altri apostoli, arrivò ad affermare: «Siamo diventati come la spazzatura del mondo e come la lordura di tutti fino ad ora». I Corinzi 4:13. Se colui che predica, colui che svolge un'opera di Dio, cerca di andare d'accordo con tutti, non potrà essere un servitore di Dio. Il messaggio di Giacomo sarà ancora più forte. Chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Giacomo 4:4. Il mondo al quale si riferisce Giacomo non sono gli uomini in generale, ma tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio, sia che provenga dalla Chiesa che fuori da essa. Cercare la stima nel mondo e dal mondo equivale a rendersi nemico Dio. E, un'affermazione forte, ma non l'ho fatta io. E, dunque, un vero disonore per un figlio di Dio l'essere un favorito del mondo. Quindi, cercare di essere stimato in ogni circostanza è sbagliato. E, chiaro che anche per questa verità esiste il rovescio della medaglia. Non essere favorito dal mondo o non cercare la sua stima non significa che il credente debba essere disonorato del tutto. Quando Paolo elencava i valori morali dell'anziano scrisse: «Or bisogna pure che egli abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, affinché non cada nell'ingiuria e nel laccio del diavolo». 1 Timoteo 3:7. Il credente come cittadino deve essere stimato dal mondo perché paga le tasse, è cortese, altruista, benevolo, lavora con impegno, è sottomesso alle autorità, non è vendicativo, vive saggiamente, giustamente e piamente, per cui se è deriso o oltraggiato la causa non deve essere altra se non la sua fede in Cristo Gesù. Essere felici o ritenere che la totale disapprovazione del mondo sia un'approvazione da parte di Dio significa cadere nel settarismo o abbracciare una di quelle ideologie estremiste basate sulla Bibbia. È giusto che il credente pretenda la stima? Prima di rispondere a questa domanda, è bene definire cosa è la stima. La stima è valutare una cosa secondo il suo valore. Nell'uso comune è avere una opinione favorevole o comunque positiva degli altri, o che altri hanno di noi. Secondo questa definizione, pretendere di essere stimato significa volere essere valutato o riconosciuto per quello che si è, sia dal lato morale che pratico. Facciamo due riflessioni in merito. A. Se il credente pretende qualcosa che poi in effetti non corrisponde a quello che egli ritiene doveroso, è in errore. Quante volte abbiamo un'opinione alterata di noi stessi? Più di quello che pensiamo. Possiamo essere migliori della reputazione di cui godiamo, ma non possiamo mai essere migliori dei principi che pratichiamo. Il nostro comportamento parla più forte della nostra testimonianza verbale, e se è vero che l'abito non fa il monaco, esso però fa l'opinione degli altri. E, per questo che la Scrittura ci invita a non reputarci saggi basandoci sul nostro giudizio. Altri ti lodi, non la tua bocca. Un estraneo, non le tue labbra. Proverbi 27:2. Perciò è sbagliato pretendere di essere riconosciuti per quello che pensiamo di essere. B. Il pretendere non rientra nel volere di Dio. Dobbiamo sempre ricordare che ciò che è scritto nella parola di Dio è rivolto innanzitutto a noi stessi. Quando la scrittura ordina di amare il fratello, Matteo 22:39, non devo andare da lui e dirgli: «Ehi, scritto che tu mi devi amare. Sono io la persona che devi amare. Punto e basta». Detto ciò, quanto sono assurde le crisi di quei fratelli e sorelle che abbandonano la Chiesa perché secondo loro non sono amati o stimati. Quando è scritto che le mogli devono essere soggette ai loro mariti, Colossesi 3:18, il comandamento non è rivolto ai mariti perché lo pretendano dalle mogli, ma è rivolto alle mogli perché si assumano la loro responsabilità. Quando è scritto che il marito non deve arrabbiarsi con la moglie, Colossesi 3:19, se questo si verifica, tale comandamento non deve essere impugnato dalla moglie, ma l'ordine è per il marito. Per, contrariamente a quanto viene insegnato da certi pulpiti, nessun anziano può pretendere la stima. Il rapporto di sottomissione tra conduttori e chiesa deve essere spontaneo ed amore, basato sulle opere e non sul carattere. 1 Tessalonicesi 5:13. Un anziano stimato più di quello che si merita cade nel laccio del diavolo e si trasforma in dittatore. L'uomo che lusinga, adula il prossimo, gli tende una rete davanti ai piedi, Proverbi 29:5, e, come traduce la Bibbia Nardoni in merito a Proverbi 25:27, non è bene ricevere onori eccessivi. Quindi, l'ordine di stimarci gli uni gli altri è per me. E se uno non mi stima, non posso pretendere che lo faccia. Del resto, la stima non si può imporre. Deve essere conquistata. Pretendere la stima è quindi sempre sbagliato. 2. Come si deve comportare il credente quando non è stimato? Abbiamo considerato come sia sbagliato ricercare sempre la stima e pretenderla. Ma è possibile che un credente meriti della stima e che questa non gli sia accordata? Come deve comportarsi? Per rispondere prendiamo ad esempio due persone che non furono stimate e che ebbero due reazioni diverse in tale situazione. A. L'esempio di Aitofel. In quei giorni un consiglio dato da Aitofel aveva lo stesso valore di chi avesse consultato la parola di Dio. Così era ogni consiglio di Aitofel tanto per Davide che per Absalom. 2 Samuele 16:23. Absalom e tutti gli uomini di Israele dissero: «Il consiglio di Hushai, l'archita, è migliore di quello di Aitofel». 2 Samuele 17:14. Quando Aitofel vide che il suo consiglio non era stato seguito, sellò il suo asino e partì per andare a casa sua nella sua città. Mise in ordine le faccende di casa sua e si impiccò. Così morì e fu sepolto nel sepolcro di suo padre. 2 Samuele 17:23. Credo che pochi uomini al mondo si siano trovati ad essere stimati al pari di Aitofel. Una sua parola è ritenuta proveniente direttamente da Dio. La stima che avevano Davide e Absalom per quest'uomo era straordinaria. Aitofel navigava nell'onore, era il primo della classe. Ma un bel giorno un suo giusto consiglio non venne ascoltato. Non era possibile, non rientrava nelle sue vesti. Così Aitofel ebbe un grosso dramma. Sapeva di avere ragione e gli veniva dato torto. Solo perché qualcuno abilmente aveva saputo impostare la faccenda in modo diverso e credibile, il suo consiglio era stato rifiutato. Aveva perso la stima, la reputazione, il prestigio e nel modo più ingiusto. Questo era troppo per lui. Non era accettabile. Cosa fare? Avrà pensato Aitofel. Io non sono abituato a vivere senza stima, a non essere ascoltato. Io ho ragione. Se non mi ascoltano, non mi rimane che togliermi dalla scena. Così impareranno, mi eclisso. E fu così che si impiccò. Forse qualcuno sorriderà per questo gesto tanto immaturo quanto malsano. Forse riteniamo Aitofel un esaltato, un maniaco di stima altrui, ma anche noi ricerchiamo la stima molto più di quello che pensiamo. Per alcuni, come Aitofel, la stima, la reputazione e l'onore valevano più della stessa vita. Un politico americano si è suicidato in diretta TV perché secondo lui era stato accusato ingiustamente. In Italia, nel periodo dello scandalo delle tangenti, si sono suicidati alcuni esponenti della politica, accusati di averle intascate. Alcune cosche mafiose distruggono intere famiglie solo per questioni d'onore. Diverse persone, dopo aver commesso cose orrende, non sopportando la vergogna conseguente al loro gesto, si sono suicidate. Nella parola di Dio leggiamo che Saul, il primo re di Israele, ha chiesto allo scudiero di ucciderlo piuttosto che subire l'onta di morire per mano del nemico, 1 Samuel. Poiché il suo insensato gesto non fu fatale, si fece togliere definitivamente la vita da una malechita, 2 Samuele 1:9. Come Ahitofel, anche Saul preferì il suicidio alla vergogna. Stessa sorte toccò ad Abimelech. Poiché un donna l'aveva ferito mortalmente in testa con la parte superiore di una macina, Abimelech chiese ad un giovane di finirlo per non subire la vergogna di essere stato ucciso da una donna. Nei Vangeli leggiamo che Pilato preferì sporcarsi le mani di omicidio, benché se le fosse lavate, e accattivarsi la stima del popolo piuttosto che liberare Gesù anche se lo aveva riconosciuto innocente. Se riflettiamo seriamente, il mondo cammina sulla base del prestigio, il quale, in ogni settore della vita, gioca un ruolo importante, anzi determinante. Infatti, le offese più gravi spesso sono quelle contro l'onore personale. Parole come cornuto, frasi come figlio di puttana, fanno saltare dalla sedia anche il più pacifico uomo della terra, quando non suscitano una rissa di serie dimensioni. Anche se le parole non producono un male fisico, il disonore e l'infamia feriscono più profondamente di qualsiasi altra cosa. Sarebbe stato meglio prendere uno schiaffo, è la frase che diciamo quando siamo disprezzati. Noi siamo degli uomini, prima di essere delle persone di fede. Anche nel campo religioso si tiene alla stima. E molto. Pensiamo ai sacerdoti e scribi del tempo di Gesù che amavano passeggiare abbigliati con lunghe vesti, essere salutati nelle piazze, avere i primi posti nei conviti e i primi posti nelle sinagoghe. Insomma, amavano essere stimati, valutati, avere prestigio dagli uomini. Vi sono credenti che occupano posti di prestigio sospinti inconsciamente dal desiderio di stima. Essi possono svolgere il ministero di predicatore o l'ufficio di anziano con tutte le gravose difficoltà conseguenti pur di sentirsi qualcuno. Molti psicologi affermano che la più profonda necessità di un essere umano è quella di sentirsi utile, e questo è possibile solo all'interno di un rapporto di fiducia, di stima. Purtroppo, per alcuni credenti, la stima vale più dell'ubbidienza a Dio, vale più di Dio stesso. Non bisogna scandalizzarsi, ma è così. Ci sono fratelli e sorelle che sono disposti a vivere una vita di dure prove, di grandi sacrifici e privazioni, ma quando entrano in ballo la stima, l'onore e il prestigio, non ci vedono più. Piuttosto di subire il disonore, si impiccano. Sì, preferiscono emarginarsi, non esserci più, piuttosto che dover subire l'onta di non essere stimati per quello che sono o pensano di essere. Essi vogliono salvare la loro immagine, costi quel che costi. La stima si è trasformata in droga. Penso ad Anania e Saffira. Mentirono per quello che riguardava la vendita del loro campo, ma probabilmente la ragione era che volevano essere considerati più di quello che erano in realtà. E Dio, per questo peccato apparentemente non grave, li ha fatti morire. Ahitofel, impiccandosi, si era ritirato dalla scena. Non dava più l'occasione di essere consultato. Così, chi ama la stima più di ogni altra cosa si comporta in modo analogo, esce dallo scenario della vita comunitaria. Ma chi si separa cerca la propria soddisfazione e si adira contro tutta la vera sapienza. Proverbi 18, 1. Contrariamente a quanto pensiamo, perché il sentimentalismo e il terbenismo è radicato in noi, il Dio dei cristiani è anche un Dio che umilia. Ricordati di tutta la strada che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che c'era nel tuo cuore e se tu osserveresti o no i suoi comandamenti. Così egli ti ha umiliato. Deuteronomio 8, 2 a 3. L'Eterno fa impoverire e fa arricchire, egli abbassa ma anche innalza. 1 Samuele 2, 7. Il nostro Dio è santo, giusto, misericordioso, ma questo non toglie che egli non costringa gli uomini in situazioni umilianti. È chiaro che egli non lo fa con uno scopo malvagio per il piacere di vedere umiliate le persone, ma egli umilia. Non è volentieri che Dio umilia ed affligge i figli degli uomini. Lamentazioni 3 e 33. Nel deserto ti ha nutrito di manna che i tuoi padri non conoscevano per umiliarti, e per provarti, e per farti alla fine del bene. Deuteronomio 8 e 16. Il nostro Dio non si smentisce. Egli è amore. Ogni sua azione è indirizzata al bene della sua creatura. In certe circostanze umilia direttamente, come quando faceva sì che una donna fosse sterile. Altre volte lo fa tramite le persone. Dio umilia. Dobbiamo ricordarlo perché se non accettiamo l'umiliazione ci troveremo a combattere anche contro Dio. Proprio perché l'Apostolo Paolo aveva presente questo principio poteva scrivere ai credenti: ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato, come anche vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad aver fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Filippesi 4, 11-13. Per Paolo, tutte le situazioni della vita, comprese quelle umilianti, erano motivo di crescita per conoscere più pienamente Gesù Cristo. E questo è il tuo atteggiamento, o fai del vittimismo? Noi facciamo del vittimismo quando la negatività della vita è ragione di lamentela, di considerarsi sempre osteggiato, perseguitato dalle circostanze e dalle persone. E vittimismo anche trovare un certo compiacimento di soffrire per cercare simpatia e comprensione. E triste doverlo affermare e constatare, ma la stima, la reputazione, l'opinione altrui gioca un ruolo talmente importante nella nostra vita che quando pecchiamo siamo dispiaciuti più per quello che diranno gli altri che per il male compiuto. In più di una situazione grave dove la reputazione veniva minata alla radice, ho sentito dei credenti preoccuparsi più di quello che avrebbero detto gli altri, che essere addolorati per il disonore che si era recato a Dio e al suo regno. Non sono però rimasto stupito perché io non sono migliore di loro. Dobbiamo chiedere a Dio il vero dolore e il vero pentimento, quella contrizione per aver disonorato il Dio tre volte santo che odia il peccato e che per questo Cristo ha subito la morte come un malfattore. E come ho sottolineato, siamo talmente corrotti che non ci accorgiamo di amare la stima, la reputazione e l'onore degli uomini più di quella di Dio. Noi abbiamo l'abitudine di leggere la parola di Dio pensando che riguardi gli altri, ma se le seguenti sentenze le applichiamo a noi, abbiamo di che umiliarci. Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma a motivo dei farisei non lo confessavano, per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Giovanni 12, 42. Come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Giovanni 5, 44. Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Giovanni 3, 19. Se siamo onesti, in quante circostanze abbiamo amato la gloria degli uomini più di quella di Dio? Quante volte prendiamo gloria gli uni dagli altri, anziché cercare la gloria che viene solo da Dio? Quante volte abbiamo amato, scelto le tenebre più della luce? Questo ci umilia ancora di più e ci fa riflettere. B. L'esempio di Paolo. Ora, essendo già trascorso molto tempo ed essendo la navigazione divenuta pericolosa poiché il digiuno era già passato, Paolo ammonì quelli della nave dicendo: «Uomini, io vedo che la navigazione si farà con pericolo e grave danno non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre persone». Ma il centurione aveva maggior fiducia nel pilota e nel capitano della nave che nelle cose dette da Paolo. Atti 27, 9-11. E poiché erano rimasti senza cibo per molto tempo, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: «Uomini, se mi aveste dato ascolto e non foste partiti da Creta, avreste evitato questo pericolo e questa perdita. ma ora vi esorto a non perdervi d'animo, perché non vi sarà perdita della vita di alcuno di voi, ma solo della nave. Atti 27, 21-22. Anche Paolo, un altro uomo di Dio, aveva dato un saggio consiglio, ma non fu ascoltato né stimato. Le cose andarono come egli aveva predetto, ma non fece alcuna rimostranza. Egli si limitò solo ad affermare che bisognava dargli ascolto. Non si impiccò, non si ritirò, non fece il muso, ma li esortò. Li consigliò, salvò la vita ai suoi carcerieri. Poteva dire a ragione: non mi avete ascoltato? Arrangiatevi! Far parte di una chiesa significa proprio questo. Stare tutti sulla stessa barca, la sorte degli altri era mia. In una chiesa non vi sono scialuppe di salvataggio con le quali uno può fuggire quando le situazioni si mettono male. Come un membro quando soffre non può staccarsi dal corpo, così se le cose vanno male. Vanno male per tutti. Ne porta le conseguenze sia chi ha ragione sia chi ha torto. Nonostante tutto, chi ha ragione e non è stimato come si dovrebbe, è chiamato ad aiutare, a sopportare, a consigliare. L'amore sopporta, perdona, cerca sempre il bene del prossimo. È evidente che la parte più difficile spetta colui che ha ragione perché non viene ascoltato o stimato. Tuttavia, prima o poi tutti ci siamo trovati in questa situazione. L'importante è non vedere dei nemici in chi la pensa diversamente. Questo è un errore che si commette frequentemente. Ma Gesù si è espresso chiaramente: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Matteo 5:30. Chi non è contro di noi è per noi. Luca 10:10. In queste due affermazioni, Gesù sta esponendo due verità. Chi non è con lui non può essere neutrale, ma si trova ad essere contro di lui. Coloro invece non sono contro di noi credenti e non sono nemici perché la loro neutralità è a nostro favore. Gesù sapeva che i credenti non hanno e non possono sempre avere le stesse vedute, perciò l'importante non essere tutti d'accordo, ma il non essere contro gli uni e gli altri. Quindi si può stimare un fratello e la sua opera senza necessariamente essere d'accordo con lui. L'esempio più significativo può essere rappresentato da coloro che introducono bibbie illegalmente nei paesi totalitari dicendo delle menzogne. Potrei anche non essere d'accordo sul fatto di mentire in quelle occasioni, ma non sono contrario all'introdurre la parola di Dio nei paesi totalitari. Non svolgerei il loro lavoro, ma non sono contrario alla loro opera. Si può stimare un fratello per l'obiettivo anche se non si condivide il modo di agire. Una stima cieca rivolta verso l'uomo non esiste, non può esistere, non deve esistere. Solo Dio è degno di una stima cieca e assoluta. La stima non deve essere sempre ricercata, non può essere pretesa, imposta. Piuttosto dobbiamo cercare di dare stima a chi ne è sempre degno, a Dio. Per fare questo, Gesù ci ha lasciato un esempio. Virgolette, punto, punto, punto. Corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta innanzi sofferse la croce, disprezzando il vituperio, cioè la mancanza di stima. Ebrei 12, 1 a 2. Quando siamo vituperati, disprezzati, infamati, possiamo avere due reazioni: o si disprezza il disprezzo, o se ne diventa vittime. Gesù disprezzò il vituperio per fede, e questo sia da parte dei discepoli che dai suoi nemici. Se questo è anche il nostro comportamento, allora avremo quello che ebbe Gesù, il premio. I cristiani che sanno agire e reagire nel modo giusto di fronte alla stima o alla mancanza di essa saranno onorati in cielo da Dio. Un ultimo pensiero. Dio è degno di ogni stima, di ogni onore, non vi sono dubbi. Eppure sia il credente che il non credente lo possono disonorare. E questo è certamente un peccato grave, anzi gravissimo. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa suo Figlio. 1 Giovanni 5:10. Chi non accetta l'Evangelo fa Dio bugiardo, non gli rende la stima di cui è degno, perché non crede che Gesù sia la vita eterna. fare Dio bugiardo è il padre di tutti i peccati, feconda ogni altro. Malsano sentimento e ribellione. Come Adamo ed Eva hanno fatto Dio bugiardo nell'Eden, chi rifiuta l'Evangelo commette lo stesso peccato credendo più al diavolo che allo Spirito Santo. Mi vengono in mente le parole di Eli rivolte ai suoi figli. Se un uomo pecca contro un altro uomo, Dio lo giudica. Ma se un uomo pecca contro l'Eterno, chi intercederà per lui? 1 Samuele 2:25. Anche noi credenti che affermiamo di credere in Gesù Cristo, ogni volta che non viviamo le sue promesse, lo facciamo bugiardo non dandogli la stima dovuta. Una vita trascinata piena di sconfitte, di cadute, non vissuta all'insegna dei frutti dello Spirito Santo, disonora colui che ci ha dato uno spirito di forza, di amore e di disciplina, 2 Timoteo 1:7, di intendimento, 1 Giovanni 5:20, la vita eterna, 1 Giovanni 5:11, il suo spirito, 1 Giovanni 4:13, una consolazione eterna, 2 Tessalonicesi 2:16. Dichiariamo di essere dei felici figli di Dio e disonoriamo nostro Padre con una vita non conforme alle sue promesse. Che Dio ci dia di avere l'obiettivo di glorificarlo e di non disonorarlo con la preoccupazione di essere onorati. Amen. La benedizione, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza appartengono al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Apocalisse 7:12. Noi e Gesù. Egli era Dio, lasciò la gloria per noi. Noi siamo fieri dei nostri natali. Egli nacque in una stalla per noi. Egli fece l'apprendista di un mestiere manuale. Noi siamo fieri delle nostre case. Egli non aveva dove posare il capo. Noi corteggiamo gli altolocati. Egli visse 3 anni con umili pescatori. Noi amiamo frequentare i circoli dei ricchi. Egli si compiaceva di stare con le prostitute. Noi ci vantiamo delle nostre capacità. Egli disse, non faccio nulla di mio. Noi agiamo di nostra testa. Egli disse, io sono fra voi come colui che serve. Noi ci curiamo della nostra reputazione. Egli non aveva né bellezza né splendore. Un salmo profetico afferma, io sono un verme, e non un uomo, l'infamia degli uomini e il disprezzato del popolo. Salmo 22, 6. Gesù si è considerato un verme, il massimo del disprezzo. Un verme deve confidare completamente nel suo creatore. Un verme non ha alcuna bellezza di cui vantarsi. Un verme non ha sentimenti che si possono urtare. Un verme non fa la vittima. Un verme non si lamenta, si contorce un po' e poi continua per la sua strada. Un verme è senza forza, non ha alcuna possibilità di proteggersi o di sfuggire al pericolo. Un verme diventa cibo per gli uccelli. Viene calpestato dagli uomini, è pronto per il sacrificio. Un verme è sempre occupato, nascosto sottoterra, e non riceve complimenti per quello che fa. Eppure è la più grande benedizione per la flora, vive esclusivamente per gli altri. Egli si ciba della terra, si ingrassa di essa, la lavora e la trasforma in un terriccio fertile, cosa che l'uomo non è ancora in grado di fare. È una delle creature più disprezzate, ma è anche una delle creature più utili. Quindi il non essere stimati quando si serve Dio e il prossimo e avere una reazione simile a Gesù ci rende consimili a redire al Creatore, al nostro Salvatore. Gennaio 2001. Tellero.